torniamo in voce alle 19.46 dai microfoni di Radio Onda Rossa, non per un GR completo ma per fare il punto sulla Turchia. Siamo in corrispondenza con una compagna che si trova a Istanbul. Pronto, ci senti? Sì, eccomi, ciao. Ciao. E niente, appunto, come sai, in questo momento compagni e compagne qui a Roma sono in via Palestro sotto l'ambasciata turca, in solidarietà con i ribelli e le ribelli in Turchia. E anzi, invitiamo ancora chi ci ascolta a raggiungere via Palestro, perché il presidio, dopo essere stato un corteo da Piazza della Repubblica, continua. E quindi niente, in questo momento ci sembra importante anche sentire voi a Istanbul per cercare di capire un po' che sta succedendo. Com'è ora lì il clima? Certo. Allora, la situazione da lunedì è di, diciamo, da martedì è di relativa calma. La piazza e il parco sono stati totalmente sgomberati e, cosa ancora peggiore, ripuliti da ogni segno della precedente occupazione. Sono tornati persino a un livello più ordinato di prima che iniziasse tutto. Quindi tutte le scritte sono state cancellate, tutti gli striscioni sono stati buttati via, tutti i manifesti che erano stati appesi sono stati stracciati, e nel parco addirittura hanno piantato 12 tigli e molte piantine, hanno risistemato tutte le aiuole. Come raccontavo prima che iniziasse tutto, quel parco è sempre stato molto dimesso, molto dimenticato, molto nascosto, ed era una parte del suo fascino. Adesso chiaramente, in attesa che il tribunale si pronunci in proposito al progetto di Erdogan, si sta cercando di far passare questa immagine di Istanbul, una città pulita, ordinata, con tutto in ordine, tutto sotto controllo, anche perché sta iniziando la stagione del turismo, che è una delle voci d'entrata di questo paese più importanti e che già ha subito un tracollo. Un articolo di ieri di un giornale diceva che sono state cancellate tantissime prenotazioni di alberghi, addirittura l'associazione degli albergatori diceva che è stato cancellato l'80% delle prenotazioni che erano state fatte. E questo sgombero è avvenuto con pesanti costi. I due giorni di sabato sera, domenica, sono stati pesantissimi, con violenza inaudita che ha raggiunto livelli che io non avevo visto prima, e con un attacco a sorpresa che sapete tutti, le immagini le avete viste. Dopodiché sono continuati gli scontri in un quartiere vicino a Taksim per lunedì, e la città anatolica di Eskişehir è stata teatro di altra repressione, e anche Ankara, come sempre. La notizia di oggi è che stamattina a Izmir sono state sgomberate delle tende che erano state messe, una trentina, in sostegno del movimento per il parco Gezi. E in seguito a questo sgombero di tende sono stati fatti ulteriori arresti. Quello che non è finito è questa, diciamo, caccia alle streghe, oserei quasi dire, perché in questi giorni continuano gli arresti, nonostante non ci siano più violenze per strada, perché la polizia, adesso che è stato tutto sgomberato, ha l'ordine di non intervenire. Due giorni fa parte di questi arresti sono avvenuti addirittura casa per casa alle 5 di mattina, sia ad Ankara che a Istanbul. Arresti a carico di gente sospettata, che fa parte di alcuni partiti socialisti, dal Partito Socialista Rivoluzionario al Partito Socialista degli Oppressi, un'agenzia stampa, una radio, che insomma fa prefigurare scenari poco allegri. E intanto gli esponenti di questo governo emettono i loro ulteriori minacce. Il ministro degli interni ha detto che verranno ponderate misure per limitare ulteriormente l'uso di Twitter, dicendo che come l'omicidio è un crimine punibile con la legge, così lo deve essere anche l'istigazione all'omicidio. attribuendo quindi ad alcuni membri di questo movimento l'aver messo sui social media appunto istigazioni a uccidere. E, ripeto, ribadisco che questo movimento è sempre, continua a essere pacifico, tanto è vero che alla violenza il popolo di Istanbul ha risposto in due modi che ribadiscono i principi, cioè comunque della non violenza, direi. Il primo, lo sapete, il Duran Adam, cioè la gente si ferma, a un certo punto si mettono tutti a guardare un punto, per esempio se c'è l'edificio della cultura di Atatürk. Ad Ankara una donna si è messa nel punto esatto in cui è stato ucciso il ragazzo, l'ultimo ragazzo morto in questi scontri. Lo stanno facendo in sempre più città, in sempre più momenti. Oggi a Istanbul, a Taksim, c'è stato anche un diverbio perché una ragazza si è messa ferma in costume e una signora velata si è arrabbiata tantissimo e hanno litigato per molto tempo. La signora velata, mi hanno detto persone che erano lì davanti, era proprio dava in escandescenze. A questa cosa sembra singolare farvi sapere che la polizia ha risposto non con la repressione ma con un'altra azione. Alcuni si sono messi seduti, perché forse poverini, no, si devono riposare anche loro, sono ironica, a leggere di fronte a questi uomini e donne fermi a leggere libri Tolstoi, dicono i giornali turchi. Altri invece dell'AKP, membri dell'AKP, si sono messi di fronte a questa gente ferma con una maglietta su cui c'era scritto contro, siamo fermi contro gli uomini fermi, al che il popolo del movimento ha fatto un'altra maglietta dove c'era scritto noi siamo fermi contro quelli che sono fermi, contro quelli che stanno fermi. Vabbè. E l'altra novità importante che mi sembra molto bella è che sono iniziati forum nei parchi, ci sono chiamati pacchi è esagerato, chiaramente dei fazzoletti di terra calpestatissima con poca erba che i turchi chiamano parchi, un po' sparsi per la città anche nel lato asiatico. E da martedì sera ci sono dei forum aperti a tutti per discutere le azioni da fare prossimamente, quindi per esempio si parla di sostenere legalmente quelli che sono in stato di fermo oppure quelli che subiranno un processo perché si è deciso appunto che devono essere arrestati, si parla appunto di andare a trovare all'ospedale quelli che appunto stanno ancora in degenza, di cosa fare in futuro. Siccome queste cose avvengono alle 9 di sera c'è anche tutto un linguaggio che si è stabilito per non disturbare la gente che sta intorno, così ognuno può prendere il megafono, parlare al massimo per due minuti, non si applaude, se si è d'accordo si levano le mani senza incrociarle sopra la testa, se non si è d'accordo si levano le mani e le si incrocia sopra la testa. Diciamo esperimenti che chissà cosa porteranno, ma secondo me avranno degli sviluppi molto, molto positivi. Diciamo questo è. Quindi il movimento continua perché appunto se ci sono tutti questi forum, queste assemblee pubbliche nei parchi, nei giardini, non si può certo dire che sia un movimento fermo, insomma. Tra l'altro anche di una grande concretezza, esatto. Mi sembra, perché si pensa subito, esatto, di una grande concretezza, sì. Anche. Sì. Esatto, non si arresta, anzi hanno una capacità di reazione incredibile e anche direi una creatività, perché no, lo scopo di ogni regime autoritario è proprio questo, è quello di reprimere questa creatività. Loro non si danno per vinti e se ne vengono fuori con idee nuove che spiazzano, danno molto fastidio, cioè mi sembra molto indicativo che la polizia, a parte che arresta questa gente ferma, no? Cioè, hanno il coraggio di arrestare gente che non sta facendo niente, comunque di arrestare, cioè li fermano, li prendono, li mettono in stato di fermo. Ma poi reagiscono, non potendo reagire con la violenza, reagiscono in questa maniera, che mostrando la loro vulnerabilità, secondo me, proprio il fatto che le proteste, anche quelle silenziose, sono, si insinuano a noi, il loro effetto destabilizzano, e questo dei forum mi sembra un'idea eccezionale, soprattutto il fatto che si tengano in questi piccoli pezzi di terra, come a dire il parco lo potete distruggere ma non distruggere, cioè il parco noi lo ricreiamo ovunque, il parco è il simbolo della nostra lotta, era il pretesto, anche se chiaramente c'erano motivi giusti perché rimanga in vita quel parco, ma sì, era il pretesto ed è diventato proprio il simbolo di un movimento che si sta costruendo, che sta proprio sul quale anche si sta, secondo me, costruendo un altro tipo di identità turca, che è stata per tutti questi decenni fondata sul culto della personalità di chi ha fondato la Repubblica. Insomma, mi sembra che le cose si stiano muovendo anche in maniera silenziosa, c'è da vedere cosa succederà questo fine settimana. Non so se lì si sente la solidarietà internazionale che sta crescendo nei confronti della rivolta, è una solidarietà che non è, come dire, da esterni, perché le motivazioni che portano in piazza tante persone in Turchia sono motivazioni che sentiamo come nostre, insomma la devastazione del nostro ambiente, il saccheggio delle nostre vite, un capitalismo che è sempre più violento, e il fascismo, l'autoritarismo, e anche questo fatto della repressione della polizia, che insomma qua con estrema ipocrisia si addita la polizia turca e poi si portano però si inscenano le stesse cose da parte delle forze dell'ordine italiane, magari con numeri più contenuti, ma quindi non so appunto se si sente la solidarietà internazionale, non solo quella della manifestazione di Roma, ma di Atene, di altre città della Grecia, di Londra, insomma l'abbiamo vista da più parti. Sì, anche in Olanda, anche in Qatar, in Spagna, si sente, i giornali indipendenti qui danno molta voce alla risonanza che gli eventi turchi hanno fuori dalla Turchia. La gente con cui ho parlato, che stava in strada, con cui stavo appunto, non faceva che ripetere che sanno che quello per cui si sta lottando è qualcosa di sopra, che esce fuori dai confini, che coinvolge tutti, per cui all'inizio li stupisce vedere noi stranieri che solidali con loro, che appunto stiamo con loro e corriamo gli stessi pericoli e insomma anche proviamo poi la stessa stanchezza, ma poi dopo capiscono, sono molto grati e questa cosa viene passa tantissimo. E niente, senti, se non vuoi aggiungere altro, ti ringraziamo per questo tuo ennesimo contributo importante, perché insomma non è facile da qua farsi un'idea di quello che sta succedendo, quindi il contributo di voi che siete giù e che raccontate da questi microfoni è importante per tutte e tutti noi, e quindi niente, ci risentiamo nei prossimi giorni e buona lotta. Elena, io ti sento, non sento più. Ok, non sento, a presto, ciao. Ciao. Ciao, grazie a voi. Ciao.